البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا Buongiorno Palestina. Oggi siamo in collegamento con Chiara Cruciati, giornalista che scrive di Medio Oriente sulle pagine del quotidiano Il Manifesto ed è caporedattrice dell'agenzia di informazione Nena News. Agenzia che dal 2010 svolge un lavoro straordinario raccontando di Medio Oriente e non trascurando, come invece fanno gran parte delle altre testate giornalistiche, di dare notizie e informazione dei contesti politici, sociali ed economici entro i quali maturano ed esplodono i conflitti e le contraddizioni. Oggi con Chiara Cruciati parleremo dell'accordo avvenuto il 6 aprile scorso tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il leader del partito blu e bianco Gantz sul piano di annessione della Cisgiordania concordata per il 10 luglio prossimo. Senza alcun dubbio la notizia ci pone veramente in allarme. Cosa potrà accadere alle migliaia di palestinesi che lì vivono? E cosa significherà la conseguente annessione della Valle del Giordano per l'economia palestinese? E non ultimo, quale sarà la sorte di Gerusalemme Est? Di questo parleremo con Chiara, ma adesso facciamo uno stacco musicale e poi la rassegna stampa. Ci risentiamo dopo, in collegamento anche con Claudio, per l'intervista a Chiara Cruciati. Di Adnan Joubran ascoltiamo La danza della vedova. La danza della vedova. Notizie dalla Palestina di questa settimana. Questa ultima settimana è stata marcata dalla commemorazione della Nakba, della catastrofe palestinese che si commemora il 15 maggio, e naturalmente questo è stato un anno particolare perché a causa delle restrizioni del Covid praticamente in tutto il mondo gli eventi pubblici sono stati limitati e dunque in Palestina come nel resto del mondo la maggior parte degli eventi si è svolta online. Per quanto riguarda l'Occidente c'è da segnalare il bel evento online che è stato organizzato da Jewish Voice for Peace, che è un'organizzazione di ebrei americani antisionisti, che ha visto molti partecipanti di eccezioni. C'erano Omar Barghouti, il fondatore del BDS, il regista Ken Loach, il cantante Roger Waters e molti altri. E sul sito amicizia-italo-palestinese.org potete riascoltare l'esibizione di Roger Waters. Roger Waters ha cantato una versione di We Shall Overcome con un testo riadattato e devo dire molto forte in favore dei diritti dei palestinesi. In questo periodo, nonostante le restrizioni ben note, insomma, che hanno limitato la vita civile ed economica, Purtroppo però la quotidiana violenza dell'occupazione non si ferma. Su The Electronic Intifada c'è un riassunto dei fatti accaduti nel mese di aprile, in cui ci sono state 3 vittime palestinesi, fra cui un giovane 22enne, che aveva partecipato a una manifestazione il mese precedente ed era stato gravemente ferito e non ce l'ha fatta. La manifestazione, presso Nablus era contro le azioni dei coloni che, hanno occupato una collina, con dei terreni palestinesi. E questo tipo di attacchi da parte dei coloni contro in particolare, i coltivatori e i terreni e gli alberi palestinesi, è decisamente aumentata proprio nel periodo della pandemia. Secondo l'Agenzia Umanitaria delle Nazioni Unite c'è stato un aumento dell'80% di questo tipo di episodi rispetto al periodo pre-crisi. E si segnalano poi anche attacchi ai pescatori di Gaza, attacchi purtroppo consueti, e sempre a Gaza c'è anche un nuovo tipo di intimidazione fatta dall'esercito israeliano che consiste nello spargere degli erbicidi sui campi vicino al confine, in modo da scoraggiare i coltivatori ad avvicinarsi al confine. Sono erbicidi tossici che vengono sparsi dagli aerei e che naturalmente costituiscono un grosso rischio sia per i coltivatori e ovviamente un grosso danno per le colture. La crudeltà pianificata del governo israeliano si accanisce anche sui prigionieri. Non è stata presa nessuna misura per ridurre la popolazione carceraria o comunque per scongiurare il rischio di contagio, come fatto invece in molti altri paesi. E Palestine Chronicle ci informa che alcuni giorni fa c'è stato anche un appello da parte di diverse organizzazioni umanitarie, fra cui anche l'UNICEF, che ha chiesto formalmente al governo israeliano di scarcerare almeno i minorenni. Ci sono 194 bambini attualmente nelle prigioni israeliane e Israele però ha rifiutato. Non solo questo, ma come scrive il manifesto, Israele ha anche ordinato alle banche palestinesi di sequestrare tutti i fondi destinati ai prigionieri e alle loro famiglie, perché li considerano un sostegno al terrorismo. E questo ha generato naturalmente un'ondata di proteste in Palestina. Per il momento l'autorità nazionale palestinese ha preso posizione cercando di difendere appunto il diritto delle banche di distribuire questi soldi, ma Israele minaccia ritorsioni contro le banche. Come annunciato la scorsa settimana, in Israele si è poi insediato il nuovo governo, il governo di unità nazionale, che gode di una maggioranza molto ampia in Parlamento, e che nel suo programma prevede l'annessione di un'ampia parte della Valle del Giordano. Ora, in questo scenario molto fosco, c'è una piccola nota positiva che è il fatto che nella società israeliana si levano alcune voci molto autorevoli. Una di queste voci è quella dello scrittore Yoshua, che è intervistato da Michele Giorgio sul Manifesto. Si dice apertamente favorevole ad uno Stato unico con pari diritti per tutti gli abitanti della Palestina e denuncia la situazione attuale come apartheid. E questo è un passo importante perché in passato Yoshua è stato piuttosto un sostenitore del sionismo e un sostenitore della soluzione a due Stati. Un altro intervento importante è quello del celeberrimo direttore d'orchestra Daniel Barenboim, il quale ha scritto un articolo molto bello su Haaretz, un giornale progressista israeliano, pochi giorni fa. Il suo intervento è stato tradotto dal sito italiano Globalist, in cui pure appunto il grande direttore d'orchestra denuncia il piano di annessione e la deriva etnografica e militarista del suo paese. E con questo chiudiamo la rassegna di notizie della settimana. Ciao Chiara, siamo qui oggi in collegamento anche con Claudio e come ho già detto all'inizio della trasmissione, in questo momento sentiamo un po' tutti l'urgenza di sapere quello che saranno le sorti della Palestina per la dichiarazione fatta dal governo israeliano sulla futura annessione della Cisgiordania. Ecco, vorrei che tu ci dessi maggiori informazioni sulla questione e sulle conseguenze che vedi delinearsi all'orizzonte. Buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato in questo spazio. Oggi appunto trattiamo una questione che è assolutamente dirimente e che al momento è stata trattata in maniera molto superficiale da molti media italiani, ma anche internazionali. Quello che si profila all'orizzonte è un processo di annessione di circa il 30% della Cisgiordania, quindi territorio occupato palestinese da parte di Israele nel corso dei prossimi mesi. Ci sono anche delle tempistiche abbastanza delineate già dal nuovo governo formato dal primo ministro Netanyahu e l'avversario Gantz, che si parla dei primi di luglio. Quindi entro i primi di luglio il nuovo governo, che dovrebbe vedere la luce la prossima settimana, in maniera diciamo ufficiale, prevede di portare alla Knesset il progetto di legge che consentirà l'annessione ufficiale della Valle del Giordano e alcuni grandi blocchi di colonie che Israele ha costruito dal 67 in poi in territorio occupato palestinese. È un processo molto significativo dal punto di vista politico, ma anche concreto. Mi spiego meglio. Molto spesso quello che insomma, ho sentito dire in questo periodo è però per i palestinesi sotto occupazione cambia poco, perché oggettivamente i palestinesi che vivono in Cisgiordania sono già sottoposti per buona parte della loro vita, delle loro attività, della loro esistenza all'autorità israeliana. Quindi qualsiasi cosa loro debbano fare, devono chiedere un'autorizzazione al governo israeliano, che sia costruire una casa, scavare un pozzo, importare materiali dall'estero e così via. Quindi l'annessione, alcuni dicono, di fatto cambia poco, è soltanto una definizione diversa rispetto a una realtà che è già di fatto esistente. In realtà qualcosa potrebbe cambiare sicuramente in peggio. Qui stiamo parlando di decine di migliaia di palestinesi che attualmente vivono nella Valle del Giordano e alcuni in villaggi che sono interni o vicini alle colonie che Israele annetterà. Decine di migliaia di palestinesi che sono cittadini palestinesi, quindi hanno una carta di identità palestinese non israeliana e che non saranno annessi ovviamente a Israele insieme alle terre. Israele è sempre stato molto chiaro su questo fin dalla sua fondazione. Avanzare, annettere terre, ma non annetterne gli abitanti. Ciò significa che queste persone, una volta completata l'annessione, se effettivamente questa si verificherà, non potranno più vivere dove vivono adesso, ma dovranno spostarsi. Assisteremo quindi a un altro trasferimento forzato di popolazione palestinese, come ce ne sono stati tanti in questi 72 anni. Più eclatanti ovviamente sono stati quelli del 48 e del 67, ma il trasferimento forzato di popolazione palestinese è un continuum, avviene ogni giorno. E qui si parla di decine di migliaia di persone che dovranno lasciare l'area C della Valle del Giordano, che va ricordato è una zona particolarmente sensibile, per questo Israele ci tiene particolarmente diciamo, ad accaparrarsela. Si tratta del 30% della Palestina storica. Si tratta della zona in assoluto più fertile di tutto il territorio palestinese, più ricca d'acqua. Si tratta di una zona in cui risiedono ancora circa 50.000 palestinesi. Qui faccio un rapidissimo passo indietro. Prima del 1967, prima dell'occupazione militare di Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est, in Valle del Giordano vivevano 300.000 palestinesi. Con il tempo, e a causa appunto dell'avanzata della colonizzazione israeliana, che nella Valle del Giordano si è realizzata attraverso la costruzione di colonie agricole, quindi gli israeliani che ci vivono sono relativamente pochi, sono circa un migliaio, ma il territorio è tutto segnato dalla presenza di colonie agricole, quindi insediamenti illegali per il diritto internazionale in cui viene fatta appunto attività agricola a fronte di quella estrema fertilità del territorio che dicevamo. Quindi se prima del 67 vivevano lì 300.000 palestinesi, oggi ce ne sono circa 50.000. Significa che questo trasferimento forzato di cui parlavamo è proseguito in questi oltre 50 anni e e ha costretto moltissimi palestinesi che vivevano delle proprie terre in Valle del Giordano a spostarsi nelle grandi città, in particolare verso Gerico, o verso Nablus, verso Tulkarem, svuotando di fatto la Valle del Giordano. Quindi chi oggi visita la Valle del Giordano vedrà piccoli villaggi palestinesi, molto più piccoli rispetto a quello che erano prima, che appunto con un progetto come quello dell'annessione che potrebbe realizzarsi a partire dal prossimo luglio, saranno di fatto costretti probabilmente a lasciare quelle terre, a spostarsi, ad abbandonare il loro stile di vita, ad abbandonare le uniche entrate economiche che hanno e a porsi sotto l'autorità diretta dell'autorità nazionale palestinese. Va ricordato anche che moltissimi di questi palestinesi, e parliamo non solo di giovani uomini, ma anche di bambini e di donne, lavorano in condizioni di spesso semischiavitù, senza contratto e con paghe giornaliere veramente molto risibili nelle colonie israeliane. Quindi è probabile anche che continuino a fare il lavoro che facevano, ma dovendo lasciare il loro territorio. Quindi gli effetti di questo progetto sulla popolazione palestinese sarà estremamente impattante, sarà un'ulteriore ondata di sfollamento forzato da parte delle autorità israeliane che non va preso sotto gamba, perché stiamo assistendo a qualcosa che ha caratterizzato l'intera vita del popolo palestinese e che prosegue. Questa volta prosegue, a differenza dei due grandi episodi precedenti, che sono stati la Nakba del 48 e la Naxa nel 67. Questa volta avviene con il beneplacito, con il via libera degli Stati Uniti d'America, che hanno letteralmente scritto il piano, il cosiddetto accordo del secolo, e avviene nel silenzio pressoché totale dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite. Ora, Unione Europea e Nazioni Unite negli ultimi giorni hanno un pochino alzato la voce e hanno criticato questo piano di annessione, hanno detto che viola il diritto internazionale, hanno detto che metterebbe fine definitivamente alla soluzione dei due stati, che è la soluzione ancora oggi cara alla comunità internazionale, ma non hanno fatto altro, non hanno minacciato sanzioni, non hanno minacciato interruzioni dei rapporti diplomatici o economici. Quindi se questo dovesse effettivamente avvenire, avverrebbe in qualche modo per la prima volta con il via libera ufficiale dei più stretti alleati israeliani, che sono però anche quelli che in teoria da anni ribadiscono il diritto palestinese ad uno Stato. Quindi è un processo estremamente importante, non è qualcosa a cui abbiamo già assistito, non è l'ennesima colata di cemento, l'allargamento delle colonie. Qui stiamo parlando di un ulteriore passo verso il radicamento di una situazione che è già incistata, ma che diventerebbe a questo punto quasi ufficiale e di conseguenza accettata. Chiara, posso interromperti un attimo? Volevo un attimo tornare su quello che dicevi a proposito del destino delle persone, perché tempo fa leggevo dichiarazioni di alcuni lavoratori palestinesi, di questi che lavorano a nero per Israele e che stanno nella Valle del Giordano, i quali dicevano: ma tutto sommato, se veniamo annessi a Israele, la cosa ci starebbe anche bene, perché così diventeremmo cittadini israeliani e avremmo quei diritti che attualmente non abbiamo, perché erano tutti lavoratori in nero. Quindi tu mi confermi che questa invece si tratterebbe solamente di una illusione, cioè la cittadinanza israeliana questi lavoratori non la riceverebbero mai. No, purtroppo credo che sia un'illusione e di certo lo sarà. Israele è stato sempre molto chiaro, lo sono stati i suoi leader e adesso con diverse dichiarazioni che sono state fatte in merito, ma anche in passato, Israele annette le terre, non annette le persone. Situazioni simili le abbiamo viste in particolare nei villaggi intorno a Gerusalemme. Villaggi che in alcuni casi, faccio l'esempio di Numan Al-Qas, sono stati annessi allo Stato di Israele, quindi ufficialmente sono territorio israeliano, ma i loro abitanti hanno una carta d'identità palestinese, quindi non sono riconosciuti come cittadini israeliani. Israele non può permettersi, dal suo punto di vista, di annettere anche popolazione palestinese, altrimenti verrebbe meno quello che è la sua natura, lo spirito con cui è stato fondato. Israele è stato fondato come stato del popolo ebraico, stato a maggioranza ebraica. Iniziare ad annettere, oltre alle terre, anche i palestinesi che ci abitano sopra, significherebbe erodere questa natura, erodere il cuore del progetto sionista e avviare in realtà poi una realtà che sarebbe in realtà auspicabile per molti, ovvero quella di uno Stato solo in cui convivono pacificamente, democraticamente, con gli stessi diritti sia palestinesi che israeliani. Questo non avverrà. Israele non ha alcuna intenzione di incrementare la propria popolazione facendoci entrare palestinesi, che significherebbe minare alla base la bilancia demografica, che è poi una delle guide, degli elementi guida di ogni politica israeliana. In Israele ci sono persone che lo fanno tutti i giorni, ci sono uffici che si occupano esclusivamente di questo, di contare ogni giorno quanti israeliani e quanti palestinesi insistono sulla Palestina storica, perché devono mantenere la maggioranza che gli permette di continuare a parlare di progetto sionista. Quindi purtroppo penso che per questi lavoratori che sperano in qualche modo di poter essere riconosciuti come cittadini israeliani, sì, sia una pia illusione, questo non accadrà. Ora, ovviamente non gli verrà data la cittadinanza israeliana, manterranno quella palestinese, con tutto il corredo di controllo sociale, possibilità di vivere una vita normale che questo comporta. È possibile anche che alcuni di loro riescano a rimanere nelle loro comunità, magari a non spostarsi se queste comunità sono al confine o se sono vicino a grandi città palestinesi, ma ecco, io non vedo all'orizzonte niente di positivo, non credo che Israele annetta un 30% di territorio che considera strategico e poi ci tenga dentro 50.000 palestinesi. Quindi significato di questo processo è uno ed è unico, allargarsi, avanzare ancora un altro po', prendersi ulteriori terre e garantirsi nel caso in cui in un futuro, che molti sperano prossimo, cambino anche un po' gli equilibri internazionali. Va detto che la fretta con cui Israele, qui chiudo, la fretta con cui Israele sta agendo è anche per chi guarda quello che succede a Washington. Quindi Israele sa che a novembre ci sono le elezioni presidenziali americane e che dopo la crisi del coronavirus e la recessione che sta vivendo l'America è possibile che Trump non venga rieletto e che si trovi ad avere di fronte un presidente democratico che magari è meno malleabile da questo punto di vista. Quindi agisce in fretta perché sa di doverlo fare, di avere poco tempo Ma di esercizio. annettere, dunque, annettere il territorio senza annettere le persone è particolarmente lesivo sul piano del diritto internazionale, in quanto è una tipica manovra da apartheid. E quindi si apre una bella area di discussione su questo. Sì, in realtà, insomma, quello che Israele ha sempre fatto, innanzitutto già l'annessione di per sé, cioè dichiarare un territorio proprio e dichiarare la propria sovranità sul territorio altrui, è già la prima violazione del diritto internazionale, che si accumula, si mette sopra quella di un'occupazione militare che dura da 50 anni. Cacciare la popolazione o anche tenercela, ma non dargli la cittadinanza, è esattamente questo, quello che ti stai dicendo tu. È un regime di segregazione razziale, per cui io riconosco certi diritti soltanto a una parte della popolazione sulla base o dell'etnia o della confessione. È qualcosa a cui stiamo assistendo in realtà da qualche anno, non è qualcosa di nuovo, che è stato denunciato anche da moltissimi israeliani. Su tutti lo storico Ilan Pappe, che da anni sta parlando di un regime di apartheid che si sta realizzando e si sta radicando in Israele. Lo stesso fanno giornalisti come Amira Hass o Gideon Levy. Quello a cui stiamo assistendo in Israele, sia dentro lo Stato di Israele che dentro i territori occupati, è in effetti la realizzazione di un doppio sistema legale e giuridico, di diritti, per cui se hai una certa etnia o confessione hai un certo tipo di diritti, ti riconosco la cittadinanza e nel caso israeliano anche la nazionalità, che andrebbe poi specificato, ma in Israele non coincidono, a differenza di tutti gli altri paesi del mondo, se sei palestinese hai un diverso livello di diritti. Questo avviene all'interno dello Stato di Israele perché dove vivono circa 1.800.000 palestinesi, sono circa il 20% della popolazione, cittadini israeliani ma senza nazionalità, quindi quello è un livello di apartheid. E poi ci sono i territori occupati. Molti dicono che i territori occupati non si può parlare di apartheid perché Israele non è lo Stato, e non c'è lo Stato di Israele, e quindi tu non sei cittadino o hai meno diritti. In realtà anche questa, insomma, affermazione è facilmente smontabile, perché qui abbiamo di fronte una situazione in cui abbiamo 2.500.000 palestinesi in Cisgiordania, 2 milioni di palestinesi a Gaza, 300-400.000 palestinesi a Gerusalemme, che sono sottoposti all'autorità israeliana, non hanno però la cittadinanza israeliana, non votano per il governo israeliano né per il Parlamento, ma sono sottoposti al 100% alle direttive dello Stato di Israele. Quindi questa realtà di segregazione razziale, seppure con sfumature diverse, è già presente. Se arriviamo al punto in cui, appunto, nella Valle del Giordano, come dicevi tu, verrà annessa la terra, non verranno annessi gli abitanti, ovviamente saremo di fronte a un ulteriore innalzamento di livello di questa realtà politica, giuridica e legale. Chiara, aspetta, fermiamoci un attimino, facciamo uno stacco musicale così anche Chiara si riposa un po' e continuiamo dopo. Il trio Joubran in improvvisazioni, Chez la Bois à musique di Jean-François Zigel. Riprendiamo la conversazione con Chiara. Ti volevo chiedere questo, cioè la presenza dell'autorità nazionale palestinese con questa annessione viene totalmente cancellata. Con che effetti? Perché leggevo che l'attuale capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano, Khushhavi, ha manifestato una propria irritazione nei confronti di questa amministrazione, di questa annessione, scusate, perché questo porta a un rischio della sicurezza dello Stato di Israele, secondo lui, nel senso che chiaramente la forza di difesa israeliana dovrà subentrare soprattutto nella zona A, a quel controllo che era invece di appannaggio dell'autorità nazionale palestinese. Tant'è vero che è stato già stimato nel bilancio israeliano un investimento di circa 15 miliardi di dollari. Mi confermi questo discorso della sparizione di quello che discende dagli accordi di Oslo del lontano 93-95? Tu hai citato una dichiarazione che sì, è stata fatta dal capo di Stato Maggiore israeliano e che ha creato molto dibattito dentro Israele, perché ha mostrato come c'è una parte particolare dei vertici militari, dei servizi segreti, che non è mai stata particolarmente d'accordo con questo tipo di azioni unilaterali e pericolose, perché le considerano appunto un pericolo serio per la sicurezza. Per la sicurezza dello Stato di Israele, quindi quello che loro prevedono è un riaccendersi di tensioni che non sono mai sopite, che insomma le vediamo tutti i giorni all'interno dei territori palestinesi, ma che la paura è anche quella di reazioni da parte di paesi vicini, quali la Giordania, che è un alleato israeliano, nel senso che ha firmato, o meglio, insomma, ha firmato un trattato di pace con Israele ormai nel 94, quindi. E che ha manifestato il suo fastidio per un piano del genere. In realtà l'autorità nazionale palestinese non verrà meno, l'autorità nazionale palestinese ovviamente resterà in area A, perché il piano di annessione di Netanyahu prevede l'annessione di territori che si trovano esclusivamente in area C. La Valle del Giordano è al 95% in area C e si parla poi di grossi blocchi di colonie, quindi non si tratta di territori che sono sotto il controllo amministrativo o militare delle autorità nazionali. È ovvio però che dal punto di vista politico una mossa del genere può far succedere quello che dicevi, ovvero un ulteriore indebolimento dell'entità che è già inutile. L'autorità nazionale palestinese, che è nata appunto con gli accordi di Oslo, è un governo senza autorità, è una mera amministrazione civile in un territorio estremamente ristretto, perché ha questo tipo di poteri esclusivamente sul 18% della Cisgiordania, che è l'area A, e in ogni caso controllata dalle autorità israeliane. Quindi è una finzione di governo che ha in questi anni aiutato Israele a costruire la sua sovranità di fatto sul territorio. E semplicemente per garantirsi una sopravvivenza. La maggior parte dei palestinesi con cui si parla dicono insomma la stessa cosa. L'autorità nazionale è spesso è considerata da molti un braccio dell'occupazione, perché gli permette di liberarsi di certi oneri, spesso oneri di tipo finanziario o amministrativo, in cambio di nulla. Quindi questa annessione, diciamo, da un punto di vista tecnico-amministrativo, toglie poco all'autorità nazionale palestinese perché riguarda territori su cui non aveva il controllo già da prima, ma significherà appunto un ulteriore indebolimento di un progetto politico che avrebbe dovuto guidare i palestinesi verso uno Stato e che ha quasi 30 anni di distanza dagli accordi di Oslo. Del 93 non ha archiviato nessun tipo di risultato politico effettivo. Quindi questa è un po', diciamo, la realtà, la situazione politica rispetto ai rapporti che si verranno poi a ridefinire tra Israele e ANP. Senti, ma intravedi uno scenario nel quale si possa presupporre da parte della comunità internazionale uno stop, un ostacolo a questa annessione, al di là del fatto di ricordare che finora c'è stato un silenzio assenso su tutto quello che sono stati i diritti umani calpestati nella politica israeliana? Purtroppo al momento io non vedo grosse possibilità. Sicuramente poi la crisi che stiamo vivendo a livello globale in questo periodo, la pandemia da Covid-19, le crisi economiche che stanno investendo molti paesi occidentali sicuramente non aiuteranno, nel senso che moltissimi saranno concentrati su altro. E quindi la questione palestinese, che già di per sé è messa all'angolo, dimenticata, ormai da qualche decennio, sicuramente non gioverà di questa crisi, di questa emergenza internazionale. Come dicevo, le reazioni a parole ce ne sono state. Purtroppo si tratta di reazioni a parole che seguono altre reazioni a parole. Ormai da 20-30 anni, dagli accordi di Oslo in poi, assistiamo a ondate cicliche. Dichiarazioni di condanna delle politiche israeliane senza che poi si giunga mai a nulla. Addirittura sono state votate decine e decine di risoluzioni all'ONU contro la colonizzazione israeliana, contro il muro, c'è cioè addirittura una sentenza della Corte penale internazionale contro il muro, eppure nessuna mai di queste risoluzioni, di queste sentenze è stata applicata. Questo mi fa temere che anche in questo caso non avvenga nulla, al di là delle dichiarazioni, vanno prese delle misure effettive, concrete, vanno interrotti i rapporti, vanno messe in discussione alleanze che sono storiche, ma a tutela del diritto internazionale. Qui si sta parlando non solo di tutelare, non solo, o meglio, primis di tutelare un popolo che è tra i popoli vittima per eccellenza della nostra terra, ma si tratta anche di tutelare il diritto internazionale, che è stato preso ad accettate, a colpi durissimi, soprattutto negli ultimi anni. È diventato ormai normale violare il diritto internazionale senza incorrere in alcun tipo di sanzione. L'abbiamo visto con l'invasione del Rojava da parte della Turchia, lo vediamo tutti i giorni con Israele, lo vediamo con il Myanmar e la questione dei Rohingya, e nessuno mai muove un dito. Quindi è diventato normale accettare che il diritto internazionale non è la legge che ci permette di gestire i rapporti internazionali senza l'uso della forza. E questo è, secondo me, assolutamente pericoloso. Per questo si dovrebbe intervenire. I governi occidentali, almeno quelli che dicono di avere a cuore la cosiddetta soluzione dei due stati, che personalmente ritengo ormai fallita, ma comunque che ritengono che la soluzione dei due stati sia ancora il loro faro, debbano intervenire. Senti, Ma e per quanto non so. riguarda i soldi di Gaza, cambia qualcosa in tutto questo quadro e questo scenario delineato oppure no? No, Gaza l'annessione direttamente non porterà effetti almeno sulla popolazione. Ovviamente Gaza vive il suo dramma che è quotidiano e costante e che si aggrava ogni giorno. Di per sé il piano di annessione non tocca Gaza, diciamo dal punto di vista proprio fisico e dei suoi cittadini, la tocca da un punto di vista politico, perché ovviamente è coinvolta come il resto dei territori occupati in questo processo di espropriazione e di trasferimento continuo. Potrebbe avere degli effetti anche, si vedrà, l'eventuale dialogo costantemente interrotto, ripreso e poi abbandonato tra Hamas e Fatah, tra il governo di Gaza, appunto il movimento islamico, e l'autorità nazionale palestinese a Ramallah. Si sta parlando già in questi giorni di un dialogo, di un'interlocuzione tra le due principali fazioni palestinesi in merito alla risposta che dovrà essere data all'annessione, che fino adesso non c'è stata, o almeno sono state ovviamente delle piccole dichiarazioni, ma non c'è stata una presa di posizione forte. Sembra che appunto questo abbia riportato intorno al tavolo i partiti politici palestinesi e che li abbia riportati, insomma, a dialogare rispetto alla reazione che dovrà essere data. Quindi forse muoverà qualcosa dal punto di vista, diciamo, politico. Anche se non è dato saperlo con certezza, visto che in questi anni abbiamo assistito a continue riconciliazioni tra Hamas e Fatah e poi a continue rotture che non hanno mai portato alla formazione, come si voleva, di un governo unico che riunisse, se non fisicamente e geograficamente, almeno, diciamo, politicamente, le due grandi enclavi palestinesi, Gaza e Cisgiordania. L'ultima cosa che volevo dire, che mi è venuta in mente adesso in realtà quando hai nominato Gaza, è che in tutto ciò dal quadro restano fuori sempre i soliti, che sono i 7 milioni di profughi palestinesi che vivono all'estero. Molto spesso ce li si dimentica, ma più del 60% della popolazione palestinese è popolazione profuga e rifugiata. Il piano di annessione, ovviamente, anche se non, diciamo, non riguarda direttamente i rifugiati all'estero, ha un impatto fortissimo anche su di loro dal punto di vista politico e anche delle speranze future, perché come recita la risoluzione dell'ONU del 48, la 194, tutte queste persone hanno il diritto di tornare nelle loro terre e nei loro villaggi. Ovviamente se questo territorio continua a restringersi, quindi da quello che era la Palestina storica si è ridotto a un 20% che era i territori occupati attuali, adesso si ridurrà ulteriormente di un altro 30%, di quel 20%, è ovvio che il diritto al ritorno viene ulteriormente indebolito, e di quelle persone, insomma, non ci si deve dimenticare, perché sono quelle che poi rappresentano il cuore vero della questione palestinese. Io molto spesso mi sono sentita ripetere in Palestina questa cosa qua da moltissimi palestinesi, che mi dicevano: sì, Gerusalemme per noi è importante, è la nostra capitale, per noi l'avanzata coloniale è terribile, ed è vero, perché ci mangia terre. Ma noi potremmo anche risolvere la questione di Gerusalemme, potremmo anche fermare le colonie, ma finché i profughi restano fuori, la questione palestinese non sarà mai risolta. Quindi, a dimostrazione del fatto che anche questo ulteriore passo, che potrebbe essere realizzato, che è l'annessione, non porrà comunque fine alla questione palestinese, che vive nei palestinesi stessi, in particolare in quelli che da 72 anni vivono in un campo profughi. Una domanda, Chiara, scusa, forse una considerazione, cioè su dove sta la speranza in questo momento? Perché i palestinesi sperano molto nell'aiuto della comunità internazionale. La comunità internazionale è molto debole, perché la comunità internazionale che cosa è? Stati Uniti, Europa, Unione Europea, Russia, Cina e diciamo. E stati islamici che sono tutti molto, molto deboli, magari votano in tanti per i palestinesi, ma poi sono molto, molto inconcludenti e molto deboli. Quindi la comunità internazionale è una cosa su cui si può poco contare sul piano pratico. Ma io quello che ti volevo chiedere è se ti risulta anche a te invece che ci sia invece una speranza a livello più di base. In qualche maniera il fatto che 12 deputati italiani prendano il coraggio di fare un'interrogazione come quelle che hanno fatto, di prendere posizione, e non parlo solamente dei 12 deputati, io l'ho visto anche qui a Firenze in alcuni esponenti politici che prima erano abbastanza ignoranti sulla questione palestinese, che però invece stanno prendendo posizione. E questo non solamente a livello, diciamo, di rappresentanti politici, ma a livello di base, a livello di sentimento nazionale. Cioè, io rilevo una sempre maggiore intolleranza verso e fastidio verso quello che Israele fa. Ecco, volevo chiederti, risulta anche a te che ci sia a livello di base questo avvertimento della intollerabilità o perlomeno del fastidio di una situazione di questo genere e della connivenza verso una situazione di questo genere? Sì, lo vedo anch'io. È vero che le società civili, i movimenti, le associazioni, anche i singoli cittadini, molto spesso i singoli politici, sono molto distanti da quelle che sono poi le politiche dei governi, e che hanno una sensibilità completamente diversa verso la questione palestinese. Sicuramente l'interrogazione parlamentare che è stata presentata pochi giorni fa, al fine del mese, al ministro degli esteri Di Maio, che appunto chiede conto dell'annessione, del progetto di annessione israeliano, è importante, perché almeno è in grado di rompere il silenzio, o almeno di costringere a discutere di una questione che ci riguarda da vicino. Detto questo, è anche vero che negli ultimi anni, diciamo, i risultati, diciamo, migliori che si sono registrati dal punto di vista soprattutto dell'intaccamento degli interessi israeliani è arrivato da un movimento come il BDS, che è un movimento che i palestinesi hanno creato, che i palestinesi hanno voluto, e che si è poi allargato a tutto il mondo, e che sicuramente ha avuto più effetti sugli interessi economici di Israele di quanto non l'abbiano avuto le critiche di governi amici. Detto questo, però, io che sono, insomma, un po' una pessimista di natura, anche se, insomma, non mi manca la speranza, dico anche che la solidarietà verso il popolo palestinese deve tornare ad essere una solidarietà politica, deve tornare ad essere come era negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, portata avanti dai grandi movimenti politici di sinistra, pacifisti. Oggi assistiamo a realtà piccole, movimenti, associazioni, singoli che fanno tantissimo per la causa palestinese, ma che non riescono a fare rete e che molto spesso, in alcuni casi, non tutti, tendono a guardare la questione palestinese come una questione di violazione dei diritti umani, quando in realtà si tratta di una questione estremamente politica. Siamo di fronte a un progetto di colonizzazione, a un progetto di appropriazione di territori altrui e di violazione del diritto all'autodeterminazione, che è qualcosa di estremamente politico, e questo dovrebbe essere il passo in più, che se non lo fanno i governi, che è ovvio che non lo facciano, forse è tempo che lo faccia la sinistra di base, che si rimetta insieme e discuta di Palestina da un punto di vista politico e non più soltanto di violazione dei diritti umani. Bene, facciamo un altro stacco musicale e poi riprendiamo per il finale con la conversazione con Chiara. Il trio Jubran in Messico, la ciudad de las ideas web. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you for inviting us Gracias for por this amazing invitarnos festival to share with you this a beautiful Ciudad de moment. las Ideas. I would like to introduce my two brothers, Quiero Wissam, presentarles a mis Adnan, dos and hermanos. Habib on the percussion. We are coming from Palestine, and Venimos de it's very hard to Palestina. be musicians coming from this area, from Palestine, because we always feel the pressure of the Siempre identity on the culture. And we tried the past 10 years to try to at least to understand the pressure between the identity and the culture. Está hablando We de will play las raíces de la just for música you y a small de lo que tune están of tratando de 1 minute expresar. and a half. Crazy thing that we did twice. Allora riprendiamo con Chiara. E, a questo punto, per finire la conversazione con lei, le volevo domandare di parlarci dell'avventura di Nena News, che proprio il 1º maggio scorso ha compiuto 10 anni ed è nata infatti nel 2010 da un progetto di un collettivo di giornalisti e ricercatori che vivono e lavorano nel vicino Oriente in Italia, con l'obiettivo di diffondere un'informazione su un'area del mondo che è terreno di conflitti, che condizionano l'intero pianeta. Ecco, Chiara, ci puoi parlare un po' di questa avventura, del progetto che state portando avanti con Nena News? Nena News, sì, come dicevi, ha appena compiuto 10 anni, il 1º maggio scorso, è stata fondata il 1º maggio del 2010 e non avremmo mai pensato di riuscire a raggiungere questo traguardo. Ci siamo invece riusciti, ci siamo riusciti bene, perché abbiamo un pubblico che continua a seguirci, che tutti i giorni si collega al nostro sito per leggere le notizie che riportiamo. Noi ci occupiamo di Medio Oriente e Nord Africa con con rubriche anche settimanali invece rispetto al resto dell'Africa subsahariana. È un lavoro che portiamo avanti con un obiettivo, che è quello di parlare di queste aree del mondo in modo diverso, o almeno diverso dalla descrizione che ne viene spesso fatta su media mainstream, di un mondo arabo, medio orientale, africano appiattito, stereotipizzato, senza complessità, quando in realtà è un mondo in continuo divenire, è un mondo luogo di conflitti sociali, non solo di guerre, ma di conflitti sociali, economici, di battaglie di lavoratori, di donne. Quello che sta avvenendo in Medio Oriente e in Africa è qualcosa di epocale, io penso. Stiamo assistendo continuamente allo scoppio di rivolte popolari che sono effettivamente trasformanti e di cui non si parla. Quindi noi quello che cerchiamo di fare è di riportare un'informazione indipendente, non abbiamo alcun tipo di editore o di padrone, siamo solo noi e il nostro lavoro volontario, di riportare in maniera il più efficace possibile informazioni su queste parti del mondo in maniera approfondita, quindi sentendo le voci di chi queste battaglie le porta avanti, queste notizie le vive. E siamo negli anni, la nostra composizione insomma è un po' cambiata, sono arrivati nuovi giornalisti, altri se ne sono andati, quindi è un progetto che non solo riguarda le aree del mondo di cui ci occupiamo, ma anche i tanti giornalisti che sono transitati e che transitano dalla nostra agenzia, con il quale abbiamo costruito rapporti e che speriamo di avere anche aiutato nella formazione di una professione. Quindi questo è un po' il nostro progetto, un progetto di formazione indipendente e diversa, senza padroni, e ovviamente siamo molto piccoli, siamo tutti volontari, per cui ogni tanto lanciamo queste piccole campagne di donazione per almeno per pagarci le spese, però ecco, il raggiungimento di questi 10 anni ci ha fatto capire che insomma siamo in grado ancora di proseguire a lungo, soprattutto se i lettori continueranno a seguirci con l'attenzione che hanno fatto in questo decennio. Bene, Chiara, ti ringraziamo veramente di cuore e saremo grati di riaverti di nuovo in trasmissione se ci saranno sviluppi, speriamo di no, ulteriori e importanti della situazione di cui abbiamo parlato oggi. Quindi ti salutiamo, ti ringraziamo veramente di nuovo per la tua disponibilità. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata anche a te. Prima di chiudere questa trasmissione, vi diamo informazione di una manifestazione che avverrà il 30 maggio alle ore 17 con partenza dal presidio sanitario di Santa Rosa, su Lungarno Santa Rosa. Una manifestazione indetta da 30 sigle. Si tratta della piattaforma di lotta unitaria Ogni giorno è il primo maggio, che prosegue il percorso avviato da mesi in vista della scadenza del primo maggio, che purtroppo quest'anno non ci ha potuto vedere in piazza come previsto a causa del coronavirus. Con l'occasione manifestiamo anche per la Palestina, quindi siete invitati a partecipare a questo flash mob, portando bandiere, cartelli e con scritte "Ogni giorno è la Nakba". Diffondete e partecipate, e noi ci saremo. Radio Wombat, tra l'altro, è la radio ufficiale dell'iniziativa. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle ore 18. Inshallah. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome one day. Deep in my heart, I do believe that we shall overcome one day.